Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Tutto è presente e immanenza. Avevo citato prima il valseriano Sebald, scrittore tedesco, trapiantato in Inghilterra e morto 57enne nel 2001. In realtà un apolide flaneur. La sua prosa, che è un vagabondaggio colto e spesso ossessivo, mescola le forme discorsive in qualcosa di inedito, dove è indistinto o abolito il confine tra ragionamento e finzione, tra critica e romanzo, al fraseggio sempre oscillante tra infinito e incompiuto. Aggiunge poi un'iconografia parallela, inserti visivi che interagiscono con le parole, foto sgranate, mappe, disegni, biglietti di treni o musei, eccetera. Voglio citare qui un suo racconto dal titolo All'estero, che fa parte di un libro intitolato Vertigini. Anche lui parla del Veneto. Nel 1980, durante un viaggio che assomiglia a una fuga a vuoto, un girovagare petrarchesco che dall'Inghilterra lo porta a Vienna e da lì a Venezia e a Verona, il narratore si dedica a delle ricerche sul pittore Pisanello, la ragione per cui avevo deciso di raggiungere Verona, e a stazionare quindi nella chiesa di Sant'Anastasia, dove si può ammirare l'affresco su San Giorgio e il drago, terminato nel 1435 da Pisanello. Continuando a leggere questo racconto, si capisce perché questo pittore è così importante. In realtà nulla della narrazione di Sebald fa presagire un punto di arrivo. Prima racconta un vagabondare solitario e opprimente a Vienna. L'ultima passeggiata è nei sobborghi, in compagnia di un amico lungo degente di un asilo psichiatrico. Poi si sofferma sui fantasmi più o meno letterari che vanno e vengono nel suo silenzioso ozio veneziano. Punto culminante del soggiorno a Venezia, tramite la lettura del diario del viaggio in Italia, 1819, di Grill Parzer, che paragona il palazzo ducale prima a un coccodrillo, poi a un informe enigma di pietra, e poi con una serie di coincidenze letterarie e associazioni di idee, sarà l'accorgersi di essere in contemplazione della prigione dei Piombi lo stesso giorno della fuga di Casanova, il 31 ottobre. Il giorno dei morti decide di ripartire e al buffet della stazione di Santa Lucia i clienti che affollano il bancone gli sembrano una vasta cerchia di teste mozze addossate sul marmo. A Verona si rifugia nel magnifico giardino Giusti, dove si sdraia su una panchina di pietra all'ombra di un cedro. Seguono frasi colme di una tenera suspense, dove la poetica dell'idillio, il mondo interno dell'esterno e viceversa, vissuto lì, sulla panchina, è un crescendo di tensione compressa. Udivo l'aria affluire e defluire attraverso i rami e il lieve rumore che il giardiniere faceva rastrellando i viottoli di ghiaia fra le siepi di bosso, il cui delicato profumo riempiva persino quell'aria già autunnale. Da un pezzo non mi sentivo più così bene. Il fatto è che l'ansia, nella prosa di Sebald, non viene da quello che racconta, ma da come lo racconta, in un basso continuo e quasi senza puntuazioni. Tutto si concatena con tutto, anche il fatto che a Verona, in una pizzeria, lo sguardo gli cade su un giornale che parla di misteriosi ed efferati omicidi avvenuti nella zona, rivendicati da un sedicente gruppo Ludwig, giovani neonazisti di buona famiglia che vennero arrestati negli anni Ottanta. Ecco ora perché è importante la pittura di Pisanello. Davanti alla pittura del Pisanello, già anni prima mi ero detto pronto a rinunciare a tutto, fuorché alla vista. Ciò che mi affascinava in lui non è solo la sua arte realistica, eccezionalmente sviluppata per quell'epoca, ma anche il modo in cui gli riesce di far germogliare questa arte su una superficie di fatto inconciliabile con il realismo pittorico e nella quale viene accordato a ogni cosa, ai protagonisti e alle comparse, agli uccelli in cielo, all'inquieto bosco verdeggiante e a ciascuna singola foglia, il medesimo diritto all'esistenza, da nulla sminuito. Rileggiamo questa frase. In essa il particolareggiamento del Pisanello richiama per effetto di riverbero, mise en abîme o autoreferenzialità, la scrittura di Sebald, la saturazione narrativa e la tensione panica che conosciamo nei suoi bellissimi romanzi Migranti, Austerlitz, Gli anelli di Saturno. Si fa qui poetica esplicita, progetto. Tutto è presente e immanenza. È una delle migliori definizioni delle panchine e del mondo visto dalle panchine. Ancora sul nord-est. Qualche giorno dopo la mia gita a Padova, ho ricevuto da Fabrizio Gloria, il mio cugino d'adozione, questa lettera. Caro Beppe, mi hai chiesto di raccontarti come sono le panchine a Belluno. La loro forma, il materiale con il quale sono costruite, le dimensioni e se dal punto di vista della loro collocazione siano ancora ritenute un valido strumento di coesione sociale da parte dell'amministrazione comunale. Così mi sono messo a cercare, o per meglio dire, a guardare meglio. Come ogni giorno mi capita di attraversare Piazza dei Martiri a Belluno. Mi piace fare sempre lo stesso percorso, passare da sotto Porta d'Oglioni, fiancheggiare il teatro comunale e camminare all'interno del piccolo parco, da dove è possibile tenere con lo sguardo tutto il porticato che delimita come un taglio di lama l'intera piazza. Allora mi siedo su una panchina e mi metto a pensare a cose mie, oppure semplicemente a osservare. Dal parco, infatti, è possibile vedere i tavolini dei bar collocati all'interno della piazza, che da sempre mi rimandano alle tante parole che si scambia la gente e alle possibili vite che sembrano promettersi. E mi viene spontaneo considerare che la vita in generale nei bar appare sempre migliore. Questa mattina, invece, è un po' diverso. Dapprima sono andato dove sapevo con certezza che le avrei trovate, al mio solito posto, dove prediligo di più stare. All'interno del giardino ho notato che le panchine sono cambiate. Non hanno più la forma classica. Adesso sono di legno chiaro e separate nel mezzo da un elemento divisorio. Più in là, verso sinistra, vi sono delle altre panchine in cemento. Sono disposte lungo tutta la circonferenza, ritagliata da una fontana che si trova al centro. Mi alzo e decido di muovermi verso Piazza Santo Stefano. Appena arrivato, noto lungo il lato destro del sagrato della chiesa tre panchine di legno con base in metallo che non credo sia ferro. Mi siedo e penso che sarebbe anche bello provare a descrivere non soltanto i luoghi dove le panchine sono già presenti, ma anche quei posti dove se ne avverte la mancanza, come nella piazzetta di Santa Maria dei Battuti, parallela a via Mezzaterra. E mentre mi alzo per proseguire il mio giro, mi fa sorridere l'idea che un giorno non lontano potremo imparare a educarci alla bellezza indicando i luoghi dove se ne avverte l'assenza. Ora attraverso il parco comunale, nell'osservare i bambini che giocano, provo un senso di nostalgia. Vorrei sedermi, ma le panchine in griglie di metallo dislocate nel parco mi comunicano un senso di disagio. Ho voglia di tornare a casa. Sarà per il freddo che mi ha preso dentro, ma mi sento solo, proprio come l'unica vera panchina che casualmente avrei scoperto il giorno dopo, mentre fumavo nel cortile della succursale della scuola nella quale insegno. Come quelle di una volta, nascosta tra gli arbusti di una pianta, di fianco ad una scala in muratura che porta all'ingresso di una casa, mi ha rimandato con la mente ad una poesia. in amabile azzurro di Hölderlin. Lessness. La morte di Samuel Beckett ha appartato eroe della parola e del silenzio. Ci turbò e ci sorprese il 22 dicembre 1989, perché nessuno di noi lo immaginava vivo, vivo di quella stupidità dei viventi condannati a essere presenti, o peggio, oggetto dei telegiornali e della loro marmellata audiovisiva. Ma furono proprio loro a darne la notizia, subito dopo le cronache e le descrizioni dei saccheggi che si stavano compiendo a Bucarest, del linciaggio del dittatore Ceausescu. Da poco era caduto il muro di Berlino. Curiosa ripetizione della storia. Scrissi su Beckett per un giornale in occasione dell'uscita di un libro delicato di ricordi della sua amica Anna Atik, moglie del pittore Avigdor Rica, e nell'anniversario della sua morte, mentre i giornali e TG diffondevano il patetico volto barbuto di un altro tiranno in un altro finale di partita, Saddam Hussein, simile in tutto a un clochard o a un senza casa del metro di Parigi e, perché no, a un personaggio di Samuel Beckett, tipo Malone muore. L'opera di Samuel Beckett, premio Nobel nel 1969, è quasi interamente un dare voce, a volte balbettio, a un universo di barboni, reietti, uomini e donne anziane e infermi, spesso immobili su una panchina. Il suo teatro non ha nulla di sociologico, tutt'altro. Non incornicia e non fa vedere niente di speciale, tranne il genere umano, di cui i lettori sono parte. Nello stesso tempo è un'opera che mostra il tentativo di andare oltre i limiti del linguaggio, che non sono mai al di là, ma al di qua. In uno scavo della lingua, in una tensione o torsione delle parole, in una loro ostensività, come nei pronomi dimostrativi che tanto hanno allucinato e illuminato i filosofi, il questo, il qui e ora, il ci, dell'esserci o da sein, eccetera. Un programma ascetico che si descrive di solito con aggettivi come spoglio, nudo, essenziale, e che forse si può cercare di cogliere anche da un aneddoto raccontato da Emil Cioran. Quando Beckett tradusse il suo testo Senza, dal francese all'inglese, coniò per il titolo il neologismo Lessness, che Cioran definì una inesauribile mescolanza di privazione e di infinito, vacuità sinonimo di apoteosi, analogo al vestirsi di ciò che ci denuda, che evocavo sopra da qualche parte. Cioran cercò senza trovarlo un neologismo francese equivalente a lessness. Ecco la qualità di quell'essere senza, sineità, linguaggio che si sottrae a se stesso. È l'inquietudine maggiore che l'opera di Beckett ha prodotto nella nostra epoca. Se tutta la scrittura di Beckett ha la povertà e l'essenzialità di una panchina, il suo teatro ne è come una grande estensione, anche metaforica, aspettando Godot, il suo testo più famoso, che deve molto al retroterra irlandese di storie di vagabondi e mendicanti, prevede come unica scenografia una stradina e un albero scheletrico, sotto cui indugiano i due personaggi vestiti quasi come clown, Vladimiro ed Estragone. Ma è stato spesso rappresentato anche con una panchina. La loro conversazione comica e assurda sembra proprio il dialogo di due sbandati su una panchina. L'intera situazione dell'opera esprime la concezione del teatro e della vita di Samuel Beckett. Aspettare che qualcuno arrivi, o che accada qualcosa che possa cambiare gli eventi, che è poi l'elemento chiave del teatro moderno. Per Beckett tutto il teatro è un aspettare e gran parte dei suoi testi sono varianti della stessa situazione, un'attesa più o meno ricca di tensione drammatica. Ma c'è un silenzio speciale e concreto in Aspettando Godot. Se Vladimiro ed Estragone si sentono in dovere di riempirlo con tante parole e buffonerie, in una gesticolazione linguistica continua e inconcludente, come se non ci fosse nulla di più drammatico di quel vuoto, di quel niente, di quel silenzio, né nulla di più reale. E questa idea affonda nelle letture filosofiche di Beckett. La qualità drammatica dell'attesa e del niente, Beckett li aveva imparati però anche dagli anni della guerra e della resistenza, cui partecipò attivamente. E la coppia che sopraggiunge, Pozzo e Lucky, ricordano un K.O. tedesco e la sua vittima. Non è un caso se i suoi testi teatrali sono stati accolti e rappresentati con tanto favore e fervore da carcerati e detenuti di mezzo mondo, come il San Quentin Drama Workshop dal carcere americano di San Quentin. Non è necessario sottolineare che la situazione dell'attesa e quella della panchina si assomiglino. La panchina è al limite surrogato, consolazione e memoria di attese più claustrofobiche e angosciose. E Beckett, formidabile passeggiatore solitario già a Dublino e a Londra, che nella routine parigina vagabondava quasi ogni giorno nel Jardin du Luxembourg o nel Parc del Montsouris, entrambi vicini a casa, aveva un rapporto molto naturale con le panchine e con i bar. Quanto alle carceri, che trovava penose, ne sentiva le urla dalla sua casa a Boulevard Saint-Jacques. Alla fine di gennaio del 1965, Beckett dedicò a una panchina un drammino, una pagina e mezza, 3 o 4 minuti di registrazione, dal titolo Come and Go, va e vieni. 3 personaggi femminili stanno seduti su una stretta panchina, quasi invisibile in una zona di luce fioca al centro della scena. Ogni donna fa una sola uscita e le altre 2 parlano ogni volta, sussurrando dell'assente, esprimendo preoccupazione e perfino orrore. Capita a ognuna delle 3 di essere assente. C'è simmetria nelle parole, nei gesti, nei movimenti, e la condizione delle 3 donne diafane sulla panchina è la condizione universale. Sono condannate tutte e 3, scrisse Beckett a un'amica. È l'umanità in generale a essere condannata in panchina. Ma è il romanzo giovanile, Primo amore, scritto nel dopoguerra e pubblicato solo nel 1970, che rappresenta una panchina al centro della narrazione. È un testo ancora abbastanza tradizionale che Beckett non amava e che risale a prima della sua svolta narrativa. Risente in modo un po' caricaturale dell'immagine che Beckett dava di sé in un certo periodo della vita, come sintetizza un dialogo del 1932 con Walter Lowenfels, un amico della cerchia di Joyce a Parigi, riportato dalla biografa americana Dider Bear. Alla fine, racconta Lowenfels, sbottai. Tu te ne stai seduto lì, senza dir nulla, mentre il mondo va a rotoli. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi fare? Beckett incrociò allora le sue lunghe gambe e mormorò. Walter, tutto quello che voglio è stare seduto sul mio culo e scorreggiare e pensare a Dante. In Primo amore, il personaggio e narratore conosce Lulu su una panchina ai bordi di un canale. Una panchina in ottima posizione, addossata a un cumulo di terra e di detriti induriti, cosicché alle spalle ero coperto. Stava lì, sdraiato come ogni giorno, guardando il cielo e gli alberi. Il tempo era dolce. Quando la voce di una donna gli chiede di fargli posto. Il primo impulso fu di andarsene. ma le fece spazio. Lei prese a venire lì sulla panchina tutti i giorni. Un giorno, racconta, pioveva e lui si credeva tranquillo. Ma sbagliava. Le domandai se rientrava nei suoi progetti venire a disturbarmi tutte le sere. La disturbo, disse lei. Mi guardava senza incertezza. Non doveva vederci granché. Credevo che stessimo bene, disse. Lei mi disturba, dissi. Quando c'è lei, non posso allungarmi. Parlavo nel bavero del mio cappotto e lei mi sentiva lo stesso. Ci tiene così tanto a allungarsi, disse. Il torto che abbiamo è di rivolgere la parola alle persone. Non ha che da appoggiarmi i piedi sulle ginocchia, disse. Io non mi feci pregare. Sentivo le sue cosce paffute sotto i miei poveri polpacci. Si mise a carezzarmi le caviglie. I due andranno a vivere a casa di Lulu. Lui non la ama, lei fa la prostituta. Quel che si chiama amore è l'esilio con una cartolina da casa di tanto in tanto. Ma l'immagine di Lulu che trattiene, anche quando se ne andrà via da lei, è quella della panchina, la panchina della sera. Di modo che parlare della panchina, come mi appariva la sera, è parlare di lei, per me. Nel 1983, anno di uscita dell'ultimo buco nell'acqua, Giorgio Messori e io facemmo anche un film con una fitta banda di amici, tra cui un regista di Berlino declassato a cameraman, Johannes Flutsch, e un'amica svizzera di nome Irene. Facemmo interpretare a loro due la scenetta della panchina di primo amore su una panchina di assicelle di plastica colorate. Ricordo che lui aveva dei pantaloni rossi e una camicia havaiana. Lei, una voce vellutata con uno straniante accento svizzero-tedesco. Fu una scenetta deliziosa, anche per la variante di lui, che dopo le parole estrasse a sorpresa un ranocchio dal taschino della camicia, dando un finale comico e dolce alla scena. Il film si chiamava «Questo periodo non finisce mai». Era dedicato alla scrittura e c'era la presenza costante di una panchina. Fu girato in 3 giorni e 3 notti dentro uno studio fotografico. Fumavamo tutti come pazzi e nell'insieme risultò molto claustrofobico. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.